9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci. E a proposito di bestie feroci, l'avete letta la dichiarazione di D'Alema? Mi ero deciso, non mi volevo candidare, ma di fronte a Renzi che mi voleva rettamare, no, resterò. E Renzi si farà male. Viva il rinnovamento. Io no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti, ora che primavera, vengo anch'io, no tu no. Per la serie invece invito a vedere tutto il verde, il primavera e testi, il titolo di Libero di oggi. Silvio frega tutti con il suo passo indietro la candidatura di Monti. Berlusconi ha messo addirittura spalle al muro la politica e tolto la certezza alla vittoria della sinistra. Ottima mossa. Comando, si dice, bere un po' troppo, se permettete. Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io. Ecco, e a proposito di mondo migliore, iniziamo con qualche pillola sulla manovra di ieri, che naturalmente, come vedete dalle aperture del giornale di oggi, se vi volete divertire, ha seminato il caos e l'incomprensione, perché ci sono giornali come il Messaggero che titolano: sia i tagli, scoppia il caso sanità, stop all'acquisto di mobili auto blu, IMU per la chiesa dal 2013. Altri come Repubblica, che scelgono l'attacco: stangata per la sanità e gli statali, ipotesi taglio dell'IRPEF per i redditi bassi. Questa è Repubblica, che ha chiuso quando ancora sembrava che ci fosse l'ipotesi di un taglio. Il Corriere della Sera punta tutto nel suo titolo su questo: tutti i tagli, il giallo della riduzione IRPEF, stretta sulle spese dell'amministrazione pubblica, si apre il caso della sanità. In altre parole, fino a 1:30 di notte i giornali italiani non avevano capito per l'ennesima volta se aveva ragione Polillo, che aveva detto vi diamo un piccolo taglietto dell'IRPEF, oppure se dare retta alla smentita era puntualmente venuta dopo. Poi alle 2 di notte si è capito una cosa. E che cosa si è capito? Che il vengo anch'io, no tu no, vale ancora una volta, perché, perdonatemi, avete sentito Monti anche al GR di Radio 24 dire la disciplina fiscale fa abbassare le tasse. Non le fa abbassare, ripeto, non ci caschiamo, cari colleghi, perché la riduzione delle due aliquote di un punto, delle due aliquote più basse dell'IRPEF, cioè quella del 23 e del 27%, è a fronte di un innalzamento delle due aliquote, quella dell'11% e quella generale del 21% dell'IVA. Quindi, se questo significa abbassare le tasse, io sono alto, biondo, Napoleone Bonaparte, ho conquistato la Russia, eccetera, eccetera, eccetera. Per favore, iniziamo a chiamare le cose con il loro nome. Quella di ieri è l'ennesima manovra di un governo che deve fronteggiare il fatto che la spesa non è ancora sotto controllo, neanche per niente. Quindi bisogna continuare a tagliare spesa, ma per coprire altre spese ci si è inventato eredità, trucchetto di Giulio Tremonti, che si era aumentato l'IVA a scaglioni annunciati, così ogni volta si dice e per non alzare le tasse che io vi taglio le spese. In realtà gli innalzamenti di tasse erano, sono minacciati. Le spese si tagliano a copertura di altre spese, perché la spesa non è affatto sotto controllo, il debito pubblico continua a crescere di 157 milioni, purtroppo, di questo, al giorno in questo mese. E allora ecco la nuova manovra, la legge di stabilità, quella che un tempo si chiamava la finanziaria, con altri 12 miliardi, che hanno provocato anche nel governo dei tecnici molto dissenso e vedrete che continueranno ad alimentarlo nei prossimi giorni. Il ministro della sanità insorge contro gli 1,6 miliardi di nuovi tagli annunciati in sanità negli acquisti, dicendo che si era già fatto tutto necessario, e il PD da subito ne sposa la posizione. Le regioni sono immediatamente insorte di fronte ai 2,9 miliardi di tagli nelle regioni che si accompagnano agli interventi sul titolo quinto. Gli interventi sul titolo quinto, secondo me, sono sacrosanti nel dire che politica energetica e infrastrutture dovrebbero essere sottratti ai veti, purtroppo, di quel titolo quinto voluto dalla sinistra contro le devolution del centrodestra, e quindi qui ci sono belle responsabilità condivise della politica di tutti i tipi. In ogni caso ci sono anche cose buone nella finanziaria. C'è la soluzione dell'IMU, che si era riaperto come problema dopo il Consiglio di Stato, che aveva detto che la legge delega era andata oltre il decreto delegato rispetto a quello che aveva detto il Parlamento. Ci sono cose un po' paradossali da vecchio regime, tipo spegnere le luci per risparmiare l'energia e le bollette dello Stato. Ma insomma, in altre parole, il segno fondamentale di questa manovra, che si spaccerà essere quello della pretesa diminuzione fiscale, a mio giudizio non lo è per niente. Col governo Monti non siamo affatto a tagli di spesa che vengono retrocessi in meno imposta, siamo a tagli di spesa che coprono nuova spesa. Poco da fare. Finché restiamo lì, come ovvio, noi il cambio di marcia non lo realizziamo. Dimenticavo di dire che naturalmente per gli statali la proroga fino al 2014 dell'aumento dell'indennità, cioè il fatto, per esempio, che ciò che già aveva fatto molto discutere, l'aumento progressivo automatico dei magistrati, non scatta per un altro anno, inevitabilmente porterà a nuove proteste. Quanto all'ipotesi di taglio dell'IRPEF per i redditi più bassi, per carità, utilissimo, ci andrei piano, visto che aumenta l'IVA, a commentare, come ha fatto stamattina Raffaele Bonanni, di svolta epocale. Questa per me non è una svolta epocale. Veniamo al punto di oggi. Il punto di oggi è un'altra questione che riguarda centinaia di migliaia di italiani e riguarda gli esodati. Quindi è il punto, uno dei più gravi errori del governo Monti, secondo me, lasciato irrisolto, non toccato, all'atto della riforma Fornero delle pensioni, che ha alzato, unificandoli, i tetti di convergenza per i trattamenti di anzianità e di vecchiaia, cosa che era sacrosanto fare, secondo me, che la politica aveva sbagliato a rinviare per troppo tempo. Ma così facendo, per mesi si è lasciato aperto il giallo di quanti lavoratori avevano firmato protocolli e intese che precedenti all'orizzonte della riforma Fornero garantivano allora degli slittamenti che adesso sono impossibili, e quindi si trovavano, per effetto della riforma, scoperti senza retribuzione, senza ammortizzatori e senza pensione. Ricordate che questa è stata una delle vicende che più ha contribuito a sbattere verso il basso l'indicatore di fiducia delle famiglie italiane. In questi giorni, in Parlamento, nel cantiere per la correzione della riforma Fornero e della riforma sul mercato del lavoro, compaiono emendamenti, tra i quali uno di Cesare Damiano, su cui molto si è discusso, che ripristina per gli esodati, in buona sostanza, le finestre di pensionabilità a 58 anni. E la copertura di questa misura, che il ministro Damiano indicava approssimativamente in 5 miliardi, 3, 4, 5 miliardi, addossandone la responsabilità di copertura al settore dei giochi, dopo un poco tempo sembra improbabile come quantità, perché si inizia a dire: ma che questa è una misura che può avere, nel ripristinare le finestre di 58 anni di pensionabilità, può avere una necessità di copertura fino a 30 miliardi in 10 anni. Quindi quali giochi? Qui il problema è che ci vorrebbero due finanziarie per coprirle. Di conseguenza la Ragioneria Generale interviene e dice: no ragazzi, non c'è copertura. E la Fornero dice: questa misura smonta la mia pensione, non si può fare. Cesare Damiano oggi, lo trovate per chi fosse interessato, in un'intervista sul Fatto Quotidiano, difende la sua riforma. Io ho scritto sul Messaggero che mi sembra che sotto elezioni destra e sinistra iniziano a fare la gara a chi non ha votato le misure più rigorose del governo Monti, e iniziano a smontarla di fronte ai propri elettorati. Dimenticavo di dirvi che Susanna Camusso, segretaria della CGIL, ieri di fronte a questa polemica sulla copertura dopo il no della Ragioneria Generale, ha detto il problema non è la copertura, si metta una bella patrimoniale, ma questa è una misura giusta. Dicevo, oggi sul Fatto Quotidiano Cesare Damiano continua a difendere la sua impostazione. E leggo testualmente prima di presentarvi gli ospiti. Cesare Damiano afferma: il nostro progetto di legge parla solo di estendere agli uomini l'attuale legge che prevede per le donne di poter andare in pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età, a patto che queste persone accettino la liquidazione dell'assegno con il calcolo contributivo. E dice Damiano: vuole sapere da chi è stata avanzata questa idea? Non certo da noi. E prosegue: dal ministro Fornero è stata avanzata nella sua replica alla Camera del 20 giugno scorso. Gliela leggo integralmente. Da ultimo, sempre nella valutazione del costo collettivo e dell'impatto sul trattamento previdenziale, si potrebbe considerare di ricorrere a una norma per estendere il contributo retroattivo anche per gli uomini. Ricordo che tale norma è già in vigore per le donne, come opzione di scelta da demandare a lavoratore e azienda. Queste sono citazioni testuali dell'intervento del ministro Fornero sul tema degli esodati in Parlamento del 20 giugno. Allora, essendo questa la situazione e volendo noi capire un pochino meglio come la pensate voi ascoltatori, ma come stanno davvero le cose, abbiamo con noi innanzitutto il relatore del provvedimento Luigi Muro. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, ci può far capire come stanno le cose dal suo punto di vista? È il relatore del provvedimento. Lei, sulle norme proposte da Damiano, non appartiene alla stessa parte politica, ma insomma, come le ha valutate? Chi ha ragione dal suo punto di vista? La ragioneria, Cazzola che dice che non c'è la copertura, Damiano che dice ma se è stato il ministro Fornero a proporlo. Lei che dice? Allora, innanzitutto vorrei chiarire una circostanza. Le proposte sono tre. Sono praticamente da tutti gli schieramenti politici, anche quella di Damiano è stata sottoscritta da tutti i gruppi, quindi c'è una condivisione sull'esistenza del problema. Dopodiché io come relatore ho un duplice dovere, quello istituzionale di rappresentare quello che mi viene dai gruppi, però c'ho anche un'idea mia personale che non può essere lasciata dietro, e cioè che tenuto conto che esiste il problema, dobbiamo anche contemperare l'esistenza di un problema con un più interesse generale che è stato quello che ha poi portato a fare la riforma delle pensioni, che tutti hanno votato, tutti coloro che poi propongono anche il cambiamento, quindi bisogna essere cauti. Se noi ragioniamo su 10 anni, mi pare evidente che non c'è la soluzione. Quindi la proposta deve essere quella che poi sta prendendo un po' piede, quella di valutare anno per anno l'impatto anno per anno e anche caso per caso. Dobbiamo stare attenti perché accanto a situazioni veramente complesse e disperate si possono annidare anche situazioni che, non voglio usare un termine eccessivo dicendo approfittano, ma che possono anche non essere, tutelabili in maniera così. Cosa vuol dire secondo lei? Faccio un secondo capire meglio. Che vuol dire che c'è qualcuno che potrebbe approfittarne? Guardi, io credo di essere a conoscenza di qualche ipotesi, che però sono ovviamente molto marginali rispetto al problema, secondo cui ci sono stati accordi tra lavoratori, anche di quadri dirigenti, eccetera, che hanno garantito per esempio una forte buonuscita o l'assunzione di figli, eccetera. Quindi sono quadri più generali, però non vorrei spostare il problema generale esiste perché nella norma sulle pensioni non c'è stato, secondo me, un regime transitorio che era inevitabile quando si taglia più fortemente. Ho capito. Secondo lei la risposta di Damiano alle critiche per la quale in cui mi scusi diceva ma veramente noi stiamo proponendo di applicare la possibilità per tutti coloro che sono esodati di andare in pensione a 58 anni e con 35 anni di contributi, sì, quindi pre-riforma, ma col metodo contributivo, quindi non è troppo favorevole, per così dire, dice lui, ai lavoratori, molti lavoratori la respingerebbero. E lei condivide questo giudizio di merito? È una maniera però per sviare il fatto che la capienza finanziaria non era coperta? Non voglio usare il termine sviare, però credo che non sia questo il punto principale della riforma, nel senso che la Commissione aveva ritenuto di fornire una facoltà, diciamo, un'opportunità ai lavoratori, cosa che già le donne possono fare nel nostro ordinamento, e cioè si era detto per tutti coloro che ritengano di poter utilizzare il percorso contributivo, inseriamo una facoltà. A dire no, questa facoltà poi si è gonfiata nel corso dei mesi, perché all'inizio era stata ristretta a coloro che hanno perso il posto. Si disse, se dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro vogliono utilizzare, una serie di aggiornamenti, una facoltà aggiuntiva, che è quella di trasformare il periodo in periodo contributivo, possono accedere. Poi è un problema di convenienza. Oggi, se noi inserissimo questo articolo, che però mi pare che c'è ampia disponibilità, come dire, a rivedere come fatto determinante, potremmo avere dei problemi, perché potrebbero accedervi tutti. È anche vero, per onestà diciamo intellettuale, che il ministro in un'audizione, credo alla commissione, su questo punto fece un'apertura. Allora, io faccio presente a tutti coloro che stanno chiedendo, ci fate capire di cosa state parlando. Stiamo parlando di lavoratori che si trovano nelle condizioni, a riforma delle pensioni Fornero a regime, di non essere coperti in alcuni casi. Quando per esempio sono stati sottoscritti a seguito di crisi aziendali degli accordi, per esempio c'è gente che ha firmato degli accordi nel dicembre del 2011, tra il 4 e il 31, che non sono coperti, non sono tutti coperti per così dire, fino a questo momento sono stati coperti 110.000 persone, il problema è capire accordo per accordo, una volta che emerge, quanti altri ci sono da coprire. Poi ci sono altri casi, cioè quei lavoratori che sono a dubbia copertura perché incappano nei requisiti soggettivi delle finestre, esatto, nel nuovo regime delle finestre che sono in vigore. Poi c'è un problema di alcuni accordi, per questo diceva Muro bisogna esaminare caso per caso, di alcuni accordi in cui l'accesso alla pensione a 2 anni dalla sigla dell'accordo di erito, all'accordo di esodo, bisogna vedere se l'accesso alla pensione è riferita alla maturazione del diritto soggettivo, e allora in quel caso si ricade nel nuovo regime della riforma, oppure se invece il requisito si riferisce alla decorrenza del trattamento piuttosto che alla maturazione del diritto soggettivo. Capite, sembrano fattispecie molto tecniche. Il problema però è che sul numero rispetto ai 110.000, il numero è molto più ampio. Nessuno è ancora riuscito a capire quanto ampio. C'è una polemica ancora evidente tra il ministro Fornero e Mastrapasqua, il commissario straordinario dell'INPS, in materia. Il problema è se affidarsi alla soluzione anno per anno, come il governo con Grilli ha fatto capire, infatti alcuni, almeno un paio di miliardi degli 12 miliardi della manovra di stanotte servono puntualmente a coprire la spesa aggiuntiva per gli esodati non computati, oppure se andare a una soluzione generale come quella che proponeva Cesare Damiano nella norma che ieri il Tesoro ha bocciato. Ci ha raggiunto il segretario della Camera del Lavoro di Milano, Onorio Rosati, della CGIL. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, chiedo a lei come la pensa rispetto al dibattito in Parlamento, a nome del Tesoro, la proposta di Damiano, la risposta di Cazzola e anche alla dichiarazione lasciata ieri da Susanna Camusso, che ha detto: ma di fronte a un problema di questa entità la questione non è tanto la copertura, mettete una patrimoniale, ma qui il problema va risolto una volta per tutto. Lei che ne pensa? Ma io penso che questo problema è del tutto evidente, conseguenza dell'intervento sul sistema previdenziale che è stato fatto dall'attuale governo con il decreto Salvitalia. In ragione di questo intervento previdenziale si è venuto a determinare questo problema che riguarda, noi pensiamo, più del doppio delle 110.000 persone che attraverso una serie di aggiustamenti successivi vengono sostanzialmente coperti, e quindi bisognerà trovare una soluzione politica con tutte le gradualità del caso, ma che sia in grado di poter dare una risposta a queste persone. Stiamo parlando di persone che sono tutte abbondantemente di sopra di 50 anni d'età, e quindi persone che verosimilmente non potrebbero ritrovare il lavoro, né tantomeno il lavoro che facevano prima, per cui è un problema sociale che come tale va affrontato. Abbiamo voluto spostare i costi dalla previdenza in termini contributivi alla fiscalità generale, perché è evidente, del tutto evidente, che queste persone in un modo o nell'altro andranno coperte. E quindi lei dice soluzione anno per anno graduale tesoro, o sarebbe intanto fare un monitoraggio dettagliato sulle persone che rientrano all'interno delle diverse fattispecie a cui lei faceva riferimento prima. Detto ciò, compatibilmente naturalmente con un impegno anche di carattere finanziario, individuare una gradualità di uscita e un sostegno al reddito di queste persone in attesa della pensione, perché soprattutto a partire dall'anno prossimo, dal 2013, molte di queste persone non avranno, avranno scaduto la mobilità, non avranno gli ammortizzatori sociali e non avranno evidentemente più maturato l'età per poter andare in pensione, quindi saranno persone al di sopra dei 50 anni senza nessuna forma di reddito. O gli si mette nelle condizioni di andare in pensione o bisogna dargli comunque un reddito, da qui il tema a cui facevo riferimento prima della fiscalità generale, perché non possiamo pensare che ci siano 108.000 persone che girano per il nostro paese spogliate da tutte le loro, dal punto di vista economico, dalle coperture, certo, necessarie. Muro, come relatore, secondo lei come si sente di prevedere che la vicenda possa trovare soluzioni legislative? Guardi, io credo che la soluzione deve guardare gradualmente, non credo che un impatto e un muro contro muro porti a nulla, né posizioni fortemente demagogiche, sia pure il problema sociale è fortissimo ed esiste. Io le voglio fare un esempio clamoroso, no? Voglio dire, può anche ragionare per principi. Per esempio, non è stato previsto in questa, nella legge del Salva Italia, che gli insegnanti, i docenti della scuola, vanno per legge, diciamo, l'anno scolastico inizia il 1 settembre, quindi hanno previsto anche per gli insegnanti che la decorrenza fosse il 1 gennaio, quindi si è creato, voglio dire, una sacca di persone che ovviamente è facilmente risolvibile il problema nel momento in cui si uniforma, voglio dire, la legge dello Stato che esiste. Quindi bisogna anche fare degli esempi ragionando per categorie, caso per caso, anno per anno. Questa è la soluzione, secondo me. Io devo chiedervi domani se avete ascoltato per mesi le trasmissioni che abbiamo dedicato e che ancora io continuo a fare, anche ancora continuiamo a fare, io e Sebastiano Barisoni, sia pure non più ogni giorno, dedicati a Disperati Mai e dedicati alle lettere, alle migliaia di lettere terrificanti che abbiamo ricevuto, storie di drammi umani, di dolore, di rottura di continuità nella piccola impresa italiana, nel loro rapporto con i dipendenti, con i collaboratori. Siamo andati avanti per mesi a proporvele, pensando che fosse elementare nostro dovere aprire le nostre orecchie, prestare le nostre voci, aprire i nostri microfoni a queste storie, e continuiamo a farlo in questo 2012 che è lungi dall'essere, per così dire, l'alba di un nuovo giorno col sole che splende. Non è così, i numeri dicono che non è così, ma chiunque fosse interessato e fosse a Milano domani, giovedì 11 ottobre alle 18:30 qua all'auditorium del gruppo 24 ore in via Monterosa 91 a Milano, c'è la presentazione di storie di Disperati Mai che sono diventati dei cortometraggi. 5 di queste storie, grazie alla collaborazione col Festival delle Lettere di Milano e al London Short Film Festival, sono diventati cortometraggi e vengono presentati domani alle 18:30 qui all'auditorium a via Monterosa 91. Ci sarà il direttore della 24 Fabio Tamburini, ci sarà Sebastiano Barisoni, e saranno presentati anche in occasione dell'evento conclusivo, al termine dell'edizione del Festival delle Lettere, domenica 14 ottobre alle 16 al Teatro Dal Verme a Milano. E vale la pena davvero, secondo me, di vederli. In ogni caso il mio impegno personale finché sono qui è di continuare ad attingere al sito di Disperati Mai, le lettere continuano ad arrivare per fare puntate, trasmissioni, per dare voce al dramma della piccola impresa che chiude di fronte a queste tasse, di fronte alle banche che rientrano e ti chiedono di rientrare, di fronte al fatto che tutti sono diventati cattivi pagatori. E a questo proposito, la mia segnalazione come il pezzo migliore per i matti che la pensassero come me, www.fermaredecrino.it, datemi atto, non ne parlo mai dell'iniziativa che ho lanciato apposta per non sentirmi dire, molti di voi anzi scrivano a prescindere che sarei qua per parlare del mio movimento, non ne parlo mai, ma per chi la pensa come me, oggi c'è un articolo che vi voglio segnalare, il Foglio Quotidiano. L'articolo è di un altro matto, del fondatore e direttore editoriale della casa editrice Liberi Libri, Aldo Canovari, ed è una pagina intera firmata da Aldo sul titolo "Chi si mangia le nostre tasse?". I casi Fiorito sono una fortuna, perché ci ricordano che sui taxpayer gravano migliaia di tax consumer, cioè chi le tasse se le pappa. E questo articolo vi chiederei di leggerlo, perché anche rispetto alla retorica del governo Monti, che adesso vogliono farvi passare che abbassa le tasse quando tocca le aliquote più basse dell'IRPEF, quando aumenta però poi l'aliquota generale e l'aliquota più bassa dell'IVA, ecco, questo articolo è un buon antidoto, per così dire. Ve ne leggo alcuni passaggi. Primo, Monti trascura, scrive Aldo Canovari, il dato essenziale della mostruosità in Italia del carico fiscale relativo e assoluto sui contribuenti. Monti, secondo, non tiene conto delle incompatibilità tra il nostro indice grezzo di total tax rate e quello di altre nazioni civili. Per rendere significativo il confronto, infatti, andrebbero applicati dei correttori in relazione alla diversità delle controprestazioni rese dalle altre nazioni cittadini e quelle di casa nostra. E lo stesso vale per i raffronti della diversa propensione a evadere tra noi e gli altri paesi. Questo servirebbe, tra l'altro, a sfatare il trito luogo comune secondo il quale in Italia l'evasione sarebbe un ineluttabile dato antropologico e non l'effetto naturale delle politiche spoliatrici dei governanti. Sono d'accordissimo. Terzo, Monti persevera nella deplorevole frode linguistica dei suoi predecessori. In cosa consiste la frode? Con il confondere i redditi tra virgolette accertati con i redditi tra virgolette evasi, quando ormai è noto a tutti che i redditi evasi sono in realtà meno del 40% di quelli accertati, cioè di quelli illegittimamente e infondatamente pretesi dal fisco, e così via. È un articolo di quelli francamente per me imperdibili. Per noi matti, naturalmente, che la pensiamo così, cioè che siamo contrari all'ideologia per la quale si dice che lo Stato siamo noi, e quindi per questo mano alla patrimoniale ragazzi, lo Stato siamo noi, quindi mano alle tasse ragazzi. No, veramente lo Stato è la minoranza pro tempore che lo amministra, e la minoranza pro tempore che lo amministra, per quanto tagliente vi sembri questa espressione, che fa, come si vede dai casi Fiorito e dall'arresto del consigliere regionale in Lombardia anche oggi per aver pagato cosche per avere 4.000 voti. Naturalmente io non sono giustizialista, siamo tutti ovviamente in attesa di sapere se anche Domenico Zambetti PDL sia accusato infondatamente oppure no, però il quadro devastante della spoliazione è veramente quello che è sotto gli occhi di tutti, altro che essere all'osso. Sentiamo un po' di vostre opinioni invece sul tema di cui abbiamo trattato oggi, quello degli esodati e della proposta Damiano tornare a 58 anni, della proposta Camusso patrimoniale per finanziarla o del no dato dal governo. Cominciamo con Fabio da Roma. Prego Fabio. Salve, buongiorno Giannino. Io so che ora pronuncerò due parole che le faranno a lei l'effetto dell'aglio ai vampiri. Ma no. Perché già fuggire a gambe levate, e sono quelli dei condoni fiscali e condoni tributari. Ma io lei penso, fa a favore o contro? Non ho capito. In questo caso a favore, ma a favore pure se vogliamo con una a favore in questo caso anche con una motivazione direi tecnica. Condono edilizio che segue alla cosiddetta regolarizzazione di oltre un milione di cosiddette case fantasma che prestano il fianco, potrebbero prestare il fianco a un milione di vertenze. Ma che facciamo? Ci andiamo a ringuagliare in questa situazione? Condono tributario, sappiamo quante sono le vertenze pendenti nelle commissioni tributarie e sappiamo che soltanto il 30% di queste cessano con una, ho capito, ma lei dice un bel condono per finanziare la copertura degli esodati, per finanziare anche un'altra cosa molto importante farei adesso, sì, per finanziare la fiscalizzazione della tredicesima mensilità limitata a un importo di 2.000-2.500 euro. Ma perché veramente il condono fiscale e il condono tributario ci portano dentro non meno di di 7-8 miliardi di euro. Vabbè, Fabio, la mia opinione è che in un paese normale i condoni si fanno quando si cambiano radicalmente gli ordinamenti tributari, cioè diciamo Giannino Ministro rispetto all'imposizione attuale che va ricondotta a poche imposte e aliquote più basse a fronte di tagli di spesa molto più incisivi, a quel punto se cambi l'impostazione di un sistema ha senso farlo, ma farlo come misura ricorrente all'italiana per gettito aggiuntivo cristallizza ovviamente l'attesa che poi continua a valer la pena fare l'evasore totale, e questo è ovvio. Secondo, diventa una misura standard di finanziamento, come propone lei, e questo non è molto giusto. Allora adesso, secondo me, ma io rispetto la sua opinione, perché è ovvio che lei dice intanto però troverei i soldi per gli esodati che altrove non si trovano. E chi lo sa se anche negli Stati Uniti c'è l'effetto incertezza nel voto. Pare che Romney sia avanti nei sondaggi, vedere per credere. Certo, è andato male il primo confronto televisivo, come sapete, a Obama, e chi lo sa che qualche sorpresa non possa portare anche Renzi nel PD. Nel frattempo D'Alema intigna, dice anche lui usa i jet privati e annuncia la ricandidatura come se fosse una specie di dispetto a Renzi. Ma è un dispetto a chi? A Renzi, gli italiani, a quelli del loro al suo partito? Ma che razza di modo di impostare una questione come continuare a candidarsi dopo tanti decenni in Parlamento oppure no, come se fossero dispetti personali. E questo che testimonia che poi sono fuori dal mondo oramai i politici dopo un po' di mandati, io lo dico con pieno rispetto anche per D'Alema, ci mancherebbe altro, però è quando si riduce il tutto a intignature e dispetti personali, quando è il contribuente che paga, che diventa un po' paradossale. Sentiamo Fabrizio dalla provincia di Prato come la pensa. Prego Fabrizio. Buongiorno dottore. Sì. E grazie di esistere. Allora, io le racconto la mia storia brevemente, perché l'azienda dove lavoravo, tessile, ha chiuso malamente. Dopo un anno di cassa integrazione e 3 di mobilità, perché ne avevo oltre 50, ora ho 60 anni compiuti, mi è scaduta la mobilità e mi è arrivata la lettera dall'INPS dove mi dice: guardi, lei è un salvaguardato. Bene. Quindi lei è uno dei 110.000 esodati salvaguardati. Diciamo dei primi 65.000. Sì. Eccoci. Allora vado là, dico, allora qui sono a posto, per cui l'erogazione sarà il prossimo anno. Dice, no, troppo comodo. Perché ora dobbiamo vedere, fare una lista territoriale con quelli che devono fare la domanda attraverso l'ufficio territoriale del lavoro, e dopo vediamo se ci rientra anche lei e se rientra nella lista. Una volta fatta la lista, la mandiamo a Roma. A Roma controlleranno tutta la lista nazionale e lì vedrà se lei ci rientra, e lo saprà forse intorno a marzo, aprile, che potrà fare domanda di pensione in quel periodo. E dico, va bene, starò alla lotteria. Nel frattempo, visto che non ho più neppure la mobilità, che faccio? Se devo andare dal dentista, lei non può mica fare tante cose. Ho capito, e come funziona allora io? Che campo di rendita? O me li date voi? E poi dopo mi richiama e dice, sì, piccole fatture occasionali, se gli capita un lavoro, lo faccia, però altrimenti va a intaccare il suo status, che poi dopo non riceve più neppure quella, chissà, andrà dopo 2 anni, 5. Ecco, 6, avete capito quella cosa che mi sta dicendo Fabrizio? Fabrizio figurerebbe come un salvaguardato. 1, 2, lo Stato gli dice, attenzione però, che tra liste territoriali e Stato poi che deve dare il benestare di controllo, se ne parla a metà dell'anno prossimo, primavera dell'anno prossimo, nel frattempo non puoi neanche lavorare, se no perdi il diritto. Ecco, questa è la situazione di caos, e tenete presente che Fabrizio in teoria fa parte della prima finestra dei meglio tutelati. Questo sarebbe lo Stato, che è il fondamento etico dell'ordinamento, ma è uno Stato pezzente, miserabile, perdonatemi. Luigi da Roma. Luigi invece in che situazione sta? Eccomi qui. Io vorrei rafforzare un pochino quello che ha detto adesso la persona che ha appena parlato, no? Io sono un esodato, sono stato esodato nel 2009 dall'azienda, ho 60 anni quest'anno, sono un ingegnere, non ho più trovato lavoro, anche perché a quest'età nessuno ti riprende in azienda. Ho anche provato a avviare delle attività imprenditoriali che sono andate male grazie a tutti gli interventi di questo governo e dei precedenti. E le dico, la situazione è ancora peggiore, perché io ho fatto la domanda, come previsto dal decreto della Fornero, per i primi salvaguardati, poiché rientro perfettamente, sono andato ad informarmi all'INPS, età contributiva, tra l'altro io ho dovuto versare, quando sono andato via, 110.000 euro per poter avere, poi per poter arrivare al minimo requisito, 38 anni di versamenti e 60 anni di età. Ora scrivo alle direzioni territoriali per avere informazioni se è arrivata la mia domanda, telefono alle direzioni territoriali, ricevo mail di rivolgermi al Ministero del Lavoro, chiamo il numero verde del Ministero del Lavoro, mi rispondono chiedendo di inviargli la mail che avevo mandato alla direzione territoriale, rispondo alla mail dicendo no, lei deve parlare con la direzione territoriale. Io sono in una situazione in cui non so cosa accadrà, non ho ricevuto la lettera, a giudicare da quello che dice l'INPS dovrei avere i requisiti per poter partecipare, per poter prendere la pensione, che è un mio diritto perché sono 38 anni di versamenti, e il risultato non lo so, non so cosa accadrà. Mamma mia. È la mia situazione. Ecco, che devo dirti? Grazie Luigi. No, non ti vorrei dire grazie Luigi, più che un abbraccio a Luigi, perché le testimonianze concrete di che cosa voglio dire, al di là del problema della copertura e di come si faccia, che è un problema fondamentale, al di là del fatto che io non penso sia saggio dire mettiamo la patrimoniale non risolve di 30 miliardi a prescindere, ma detto questo, poi le condizioni per migliaia e migliaia di italiani sono queste: la totale mancanza di alcuna certezza dopo una vita intera passata ad aver lavorato. E insomma, Giulia da Milano, la sua condizione? Sì, sì, Oscar, buongiorno. La mia condizione è la condizione del mio ex marito, a dire la verità. È una situazione anche peggio, perché queste persone mi sembrano aver capito che sono in mobilità e non sanno cosa succederà dopo. Lui ha smesso di lavorare il 31 dicembre, lavorava presso la Banca San Paolo, Intesa, e praticamente gli hanno proposto a giugno questo scivolo, lui ha 60 anni, per arrivare ai 62, siccome ha problemi di salute ha accettato. Il 31 dicembre ha smesso e da allora non ha visto ancora un centesimo da nessuno. Lui è esattamente, rientra in quegli accordi tra il 4 e il 31 dicembre, che sono il primo problema come ordine di grandezza rispetto a quelli a cui dare una risposta, perché è esattamente il mese della riforma, per così dire, Giulia. Beh, torneremo su questo tema, intanto sta scadendo il nostro tempo di oggi. Molti mi chiedono di tornare alla stampa internazionale europea. Per fortuna, molti mi avevano detto che annoiavo con i temi europei. Ci torneremo, anche perché anche lì sospettati siamo e sospettati siamo rimasti. A domani!